Radio Città Fujiko e il CRAP, Comitato Ricerche Associazione Pioniere, presentano Fumetti a Sinistra, il Pioniere, un mondo dentro a un balloon. Che mondo sarà se ha bisogno di chiamare Superman? Che mondo sarà, fa l'effetto del motore che non va? E bentornati a Fumetti a Sinistra, un mondo dentro il balloon. Se l'altra volta, la puntata scorsa, abbiamo fatto il punto di ciò che abbiamo ascoltato e detto prima dell'estate, oggi invece apriamo il nuovo corso e lo facciamo con un ospite davvero importante. Parliamo con dunque Antonio Faeti, che è un po' il decano del fumetto italiano, prima da maestro, poi da professore di università e quindi da professore di master, diciamo ha inventato a grande livello la storia della critica dei fumetti nel nostro paese. E quindi quale migliore voce per commentare il Pioniere e ciò che ne è seguito. Ma prima di entrare con l'intervista, di cui oggi presenteremo la prima parte, lasciateci inaugurare di fatto questa nuova stagione con un inno alla nostra emittente, che non a caso si chiama Radio Città Fujiko, la famosa fidanzata di Lupin. Quindi entriamo nel mondo dei fumetti e dei cartoon, anche se siamo all'interno dei manga, che sono direi anni luce dopo gli eroi di Cipollino, Atomino, Chiodino del Pioniere. E dopo l'incorreggibile Lupin III, andiamo nel vivo della trasmissione con l'intervista che Morina Moretti ha registrato appunto con Antonio Faeti, critico del fumetto, e con lui faremo un vero viaggio nel mondo del segno grafico, ma non solo. Professor Faeti, lei è un conoscitore del Pioniere, ma anche di altre pubblicazioni per ragazzi come Il Vittorioso e Il Corriere dei Piccoli. Tra questi periodici per ragazzi, che tipo di rapporti c'erano? Dunque, di rapporti non ne indicherei nessuno, perché il fatto che fossero tutti e tre settimanali e che avessero il formato che usava allora, appena un po' più piccolo del formato di un quotidiano, non vuol dire molto. In realtà erano, come è stato, non sono io ad avere per primo messo in evidenza questo sul mio guardare le figure, si parlava in questi termini anche nei raduni annuali dell'Associazione Nazionale Amici del Fumetto, dove spesso ci dedicavamo anche allo studio, non solo agli scambi, al collezionismo puro. In realtà avevano delle identità così forti, così rilevanti e così diverse da costituirsi come elementi in proprio, con pochissimo riferimento a ciascuno di loro alle zone vicine, perché il Pioniere era, come chiedeva Togliatti, non ricevendo però, almeno a suo dire, mai esattamente quello che chiedeva davvero, e quindi era legatissimo al partito, costituiva lo spazio per ragazzi di una lunga traiettoria molto importante e molto significativa, che andava da noi donne al pubblico femminile, al calendario del popolo, per gli amanti della storia, e così via, sempre in maniera molto, molto gramsciana, diciamo, pure, almeno io la vedevo così, perché nei quaderni del carcere c'era molte volte l'idea di una specificazione secondo il pubblico, perché Gramsci, come si sa, oltre che un grande politico, era anche un grande pedagogista che pensava molto all'educazione. Il Corriere dei Piccoli aveva una ascendenza liberal-giolittiana al quale si teneva legatissimo, e anche se è vero che i liberali autentici come tali erano molto pochi, è però vero che contavano molto, specialmente nell'ambito della stampa. Non è caso che il loro più celebre e durevole segretario, Giovanni Francesco Maragogi, fosse il figlio dell'inviato a Londra del Corriere della Sera, Olindo Maragogi, e che respirasse quell'aria. E quindi i grandi autori e i grandi disegnatori del Corriere dei Piccoli avevano una dimensione che portava verso un mondo rimpianto, fatto di glorie alla Giolitti, fatta di eroi risorgimentali e così via. Invece il Corriere, il Vittorioso, che nacque nel 1936, aveva all'inizio un intendimento molto preciso, cioè quello di fare riconoscere una zona educativa cattolica nella forza educativa molto molto severa, molto onnipresente, perché non bisogna dimenticare che il capo del fascismo aveva anche fatto il maestro, e che comunque una formazione magistrale e magisterina, proprio come la mia, ce l'aveva. E quindi era una forza veramente schierata, perché era un momento in cui la Chiesa, specialmente nelle sue propaggini educative, si sentiva molto a margine, molto umiliata. E quindi il Vittorioso diventò un giornalino di battaglia, con una, un po', secondo me, il genio di chi la faceva, e io l'ho anche molto conosciuto, perché era un sacerdote della mia parrocchia, e Don Giovanni Catti, Gianni per tutti, e gli volevo anche molto bene, ed era il segretario di redazione della Vittorioso, morto ultra novantenne qualche anno fa. Siamo sempre stati molto amici, quindi avevo informazioni dirette. E quindi i tre erano tre giganti, tutti e tre, sul piano della storia della stampa periodica per ragazzi. E le somiglianze le vedrei molto molto scarse, e questo io lo giudico un dato estremamente positivo, perché non è facile, infatti tutti e tre sono poi stati irripetibili, e il trio non si è mai più ricomposto in nessuna direzione. Non è facile assumere una forte identità, pur dovendo corrispondere a un pubblico settimanale, a esigenze di stampa, di concorrenza, perché c'erano poi tutti gli altri in una direzione completamente differente. Io so che il Pioniere, so perché io sono stato un amico amicissimo di Gianni Rodari, siamo frequentati, venuto dove c'è il maestro più volte nelle mie classi a salutare i miei bambini. E Rodari, lo sapeva anche lui, che combattere contro Tex non era cosa da poco. Oltretutto tutti e tre, rispetto alla quella che chiamavo, perché ero molto legato anche a Sergio, quello che io chiamavo la Bonellità, erano tutti e tre, diciamo pure, perdenti, perché il senso che aveva Bonelli della storia, della la capacità di trovare ingegni che nessuno conosceva. Basti dire che una delle colonne della casa, Mister No, se lo faceva da solo, lo scriveva lui. Secondo lei la chiusura di questi periodici, Pioniere poi è stato pubblicato un po' su Noi Donne, su Unità, ma diciamo nel 62 poi il periodico chiude, può essere addebitata anche a un cambio di segno, cioè entra un altro tipo di fumetto in Italia o ci sono anche altre ragioni? Beh, la prima ragione è senz'altro questa. Io ricordo che quando i miei bambini, perché allora facevo il maestro, all'inizio degli anni 60, erano tutti schierati con Diabolik, io che ero competente ed ero collezionista come loro, facevo spesso osservare con i mezzi d'allora, con ore diapositive o i proiettori a sovrapposizione, quello che io sentivo profondamente, che rispetto a questi tre colossi anche dell'arte grafica fumettistica, Diabolik era pessimo, era disegnato almeno all'inizio, poi con l'arrivo di Zaniboni migliorò molto, ma non era nemmeno lontanamente paragonabile. Era il fatto che Diabolik metteva in evidenza il lato proibito della narrazione, cosa che nessuno dei tre grandi giornali poteva fare, perché ognuno dei tre aveva una missione educativa molto precisa, molto sentita, molto ribadita, mentre, anche se è vero che le due creatrici di Diabolik erano maestre come me tutte e due, Diabolik non ce l'aveva. Dorelic ha colpito di nuovo. Il terrore regna sulla Costa Azzurra. Conosco questa risata, signori. Dorelic qui! Nessuno può fermare Dorelic. Arriva la bomba che scoppia in bomba. Si tratta di me, dai reggiti forte che spacco le porte. Nelle prossime puntate la seconda parte altrettanto interessante dell'intervista con Antonio Faeti, ma cominciamo un viaggio non solo all'interno del Pioniere, ma guardando anche i giornalini che si contendevano i favori dei ragazzi all'interno di quegli anni 50, di quegli anni della ricostruzione, di quegli anni del post bellico. Quindi cominciamo subito col Corriere dei Piccoli, una costola nata dal Corriere della Sera, che al pari della Madrepatria è sempre dalla parte del potere. Regio coi regi, fascista coi fascisti, partigiano con i partigiani, democristiano coi democristiani. Ma ascoltiamo questa carrellata di storia italiana vista dalle pagine dei fumetti del Corriere dei Piccoli. 1908. Nel clima di prosperità economica del secondo governo Giolitti, esce il primo numero del Corriere dei Piccoli, un giornalino che alla densa narrativa nostrana affianca le tavole colorate del New York Herald Tribune con le avventure del Buster Brown di Out Cold, del Happy Hooligan di Hopper, dei Max and Moritz di Dirks, dei Little Nemo di McKay. Purtroppo, nell'edizione italiana, i fumetti vengono soppressi e i dialoghi, spesso arguti, vengono sostituiti da insulse rime baciate a piedi vignetta. Chiave mormorava calma e placido al passato. 1914-1918. A Sarajevo viene assassinato l'arciduca ereditario d'Austria, Francesco Ferdinando. L'Austria e la Germania dichiarano guerra alla Serbia, alla Francia e alla Russia. Parla Altero ai suoi soldati, Franz Josef l'imperatore. Gli italiani ci han sfidati, pagheranno il loro errore. A Caporetto le truppe austriache sfondano il fronte. Gli italiani ripiegano, lasciando sul terreno 400.000 uomini. Toffolino se n'è accorto, chiede fievole che c'è. La medaglia qui ti porto per comando del mio re. Ora l'anima innocente si prepara a volar via. Toffolino dolcemente par che dica, Italia mia. L'ultima sarà un bell'anno c'è l'uniero, il chiave mormorò, non passa lo straniero. Interventista e guerrafondaio, come ogni giornale della ricca borghesia,

Per cantare i fasti della guerra di Spagna, compare per la prima volta la vignetta con testo in prosa. Il fumetto è ancora lontano, ma l'egemonia della strofetta comincia a vacillare. Battaglioni del Duce, battaglioni della morte creati per la vita, a primavera sacra partita. 1939-1945. Ora, segnata dal destino, batte il cielo della nostra patria. L'ora delle decisioni irrevocabili. La dichiarazione di guerra è già stata consegnata agli ambasciatori. Don Gradasso Sbudelloni, dagli storici balconi, al sultan di Gibilterra dichiarato a orrore la guerra. Nella tempesta bellica, il corrierino naviga con tutta l'abilità e la disinvoltura della classe dirigente alla quale appartiene. L'autarchia elimina anche gli ultimi eroi americani e apre la strada a una pletora di personaggi caserecci dalla vita molto breve. Mussolini viene fucilato e le truppe alleate occupano anche il nord Italia. La vittoria! A squarciagola grida Mimmo. E chi va a scuola? Ed applaude a piene mani quegli eroici partigiani. Oh, bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Oh partigiano, portami via, perché mi sento... Dopo essersi prudentemente travestito, il giornalino affida le sue copertine a un nuovo personaggio di Manca, così trasparente e così tempestivo da non sfuggire del tutto al cattivo gusto. Don Gradasso Sbudelloni, delle spighe fra i covoni, ritto sulla Trebbiatrice, do l'esempio al popol, dice. Era una bionda bambola. Ma a chi era rivolto il Corriere dei Piccoli? Qual era il suo target? Ce lo racconta meglio lo storico e critico dei fumetti Ernesto Preziosi. Il Corriere dei Piccoli poteva essere utilizzato da chi? Dai figli di coloro che compravano il Corriere della Sera, e c'è già una selezione di classe e di categoria molto forte. Chi comprava il Corriere della Sera? Soltanto alcuni ceti, alcune persone di alcuni ceti. Quindi evidentemente il Corriere dei Piccoli va a collocarsi in quella dimensione, non coglie un pubblico popolare. Grazie dei fiori fra tutti gli altri. 1946-1960. Il referendum popolare trasforma il Regno d'Italia in una repubblica. La Democrazia Cristiana vince le prime elezioni. I nuovi eroi sono Gina Lollobrigida, Salvatore Giuliano, Fausto Coppi, Nilla Pizzi, Vilma Montesi. La civiltà dei consumi conquista l'America e si prepara a conquistare l'Europa. Dalla guerra, il Corriere dei Piccoli esce un po' scosso. Il suo monopolio è crollato. I giornali a fumetti hanno conquistato il diritto d'asilo nelle famiglie della Nuova Italia. Così, senza parere, alle ormai vetuste storie e strofette si affiancano quelle realizzate integralmente a fumetti. Tempo pochi anni e avranno completamente sopraffatto le prime. Leader della vecchia guardia rimane l'eterno Bonaventura, aggiornato ai tempi dell'inflazione e affiancato dall'ultimo fortunato personaggio di Manca. Tamarindo, ma che hai fatto? Tamarindo mentecatto, ora gridano furenti Sor Cipolla e complimenti. Tamarindo, guai a te, fa Cipolla fuor di sé. Alla prima che mi fai, ti licenzio e te ne vai. I ragazzi intanto si sono fatti più scaltri, crescono più in fretta. Di Tamarindo e di Bonaventura non sanno più che farsene. Il Corriere dei Piccoli si adegua ancora una volta ai tempi, affidandosi ad autori più smaliziati, Battaglia, Frollo, Prat, Iacovitti. Le loro storie per bambini, adulti, tecnologici, scafatissimi, sono certo più ricche di quelle di un tempo. Eppure, su queste impeccabili, patinatissime pagine, è inutile cercare un soffio di quella poesia che spirava fra le umili paginette rosa di 60 anni fa. Radio Città Fujiko e il CRAP, Comitato Ricerche Associazione Pioniere, presentano